24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:21 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, chiudiamo la settimana e vi lasciamo in un fine settimana gelato. Lascio anche Peter Bescapè, il nostro alpino. A Roma nevica? Oh, ditecelo, perché ne parleremo dalle 8:30. State attendendo la neve come si attende, non so, l'avanzata delle truppe napoleoniche. Nevica o no? Intanto forse nevica, forse no. Le scuole sono chiuse, ma nell'ultima settimana non è una novità. Gli uffici pubblici sono tutti chiusi. C'è molta polemica, devo dire, io la butterò anche un po' in ironia, me lo consentirete, perché insomma, che la capitale di un paese nevica 30 centimetri, chiuda totalmente, preventivamente per 2 giorni, e non è il primo giorno, un po' di ironia spinge a farla. Comunque, insomma, la situazione è questa, ne parleremo alle 8:30 di Roma che attende la neve e si blinda e si chiude tutta. Che ne pensate? Per i vostri messaggi il 349-238-6666, ne parleremo alle 8:30, avremo Mario Borghezio, sì, mi ha fatto un po' uno scherzetto, e poi ci sarà l'assessore alla mobilità del comune di Roma con noi, così come invece alle 8:20 torneremo sulla questione partiti, controllo dei soldi ai partiti, avremo ospite l'ex tesoriere dei radicali che è stato condannato perché si è portato via un po' di soldi, credo 250.000 euro, sentiremo che cosa ci dice. Ora andiamo a capire che cosa propongono i giornali in edicola, mentre proprio vedo la Padania, no? Il nord non paga la finta neve di Roma. Questo è il titolo della Padania. Vabbè, ho aperto con la Padania giusto per capire il clima. Allora, intanto voglio aprire oggi col titolo del Fatto Quotidiano, perché è un'esclusiva che poi vedremo e che è un titolo shock. Vaticano, complotto contro il Papa, entro 12 mesi morirà. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che pubblica un documento, un appunto consegnato un mese fa dal cardinale Castrillon a conoscenza di Benedetto XVI, riferisce quanto detto dal cardinal Romeo, arcivescovo di Palermo, in alcuni colloqui in Cina. E vedremo di cosa si tratta. Gli altri quotidiani, Sole 24 Ore, accordo greco sotto esame UE, questo è il titolo d'apertura, mentre molti parlano del colloquio Obama-Monti. A Washington, il Corriere della Sera, Obama, USA e Italia mai così vicini. Per Repubblica, Monti Obama, patto per la crescita. Anche La Stampa, la crescita imperativo comune. Mentre Il Giornale, Monti boccia gli italiani. Il Messaggero mette la neve, ovviamente. Torna la neve, Roma chiude scuole e uffici. Ma anche come apertura, Obama, fiducia in Monti. Questi sono alcuni dei titoli d'apertura, poi ne vedremo anche altri. Io intanto voglio dare rapidamente alcune segnalazioni. Oggi ho trovato delle cose tra lo spassoso e il comico nella rassegna stampa, roba da rischiare di ridere in diretta. La prima è questa: su prima pagina di Libero, Francesco Specchia racconta la vicenda di 3 militanti leghisti che sono stati arrestati in flagranza di reato perché stavano scrivendo sul muro di Varese, credo, la scritta con la vernice Monti Buffone. Scrivono Monti Buffone e rischiano 3 anni di galera. È inutile rispolverare la tradizione del dissenso murale o il ribellismo culturale del samizdat sovietico per giustificare i 3 giovanissimi militanti della Lega Nord denunciati dalla polizia nottetempo per vilipendio delle istituzioni costituzionali, dopo aver scritto sul muro di Varese Monti Bufi. Ebbene sì, perché cioè, voi vedete questa foto che fa molto ridere con la scritta Monti Bufi. Uno dice, ma com'è Bufi? Sì, perché sono stati arrestati mentre lo stavano scrivendo, e quindi quella bu hanno scritto buff e poi quella F è rimasta a metà e sono arrivate le manette. Tanto che Libero, buttandola un po' sull'ironia, dicendo ma rischiano 3 anni di carcere. Cioè, vi rendete conto, per vilipendio delle istituzioni costituzionali per aver fatto questa scritta. Ma diamo dei consigli, in realtà potevano dire che stava scrivendo Monti Buffetto o Monti Bufalo oppure Monti Bufo Marinus Linneus, altrimenti detto rospo delle canne, anfibio della famiglia dei bufonidi, una delle specie più degli anuri più infestanti del mondo, ma certo per i tre artisti del Carroccio sarebbe stato complicato spiegare alla pubblica autorità cosa sono gli anuri. Sicché a quel punto hanno confessato, hanno detto sì, stavamo per scrivere Monti Buffone, e rischiano 3 anni di galera per vilipendio delle istituzioni costituzionali, tanto che Libero dice e scrive almeno gli avessero fatti finire la scritta per far scrivere davvero Monti Buffone. Comunque troverete a pagina 7 di Libero, con richiamo in prima pagina, questa foto Monti Buffi che campeggia su un muro di Varese. È arrivato l'arresto per 3 leghisti. Poi tutti i giornali si occupano di una strada festa definita erotico trash a Napoli, tra l'altro nel giorno in cui una militante, un onorevole del Partito Democratico, aveva lanciato l'iniziativa Occupy Scampia contro la Camorra, un'iniziativa molto, molto interessante. Nello stesso giorno c'è stata però una festa quasi in contemporanea di Occupy Scampia che imbarazza ora il Partito Democratico, e ne stanno parlando tutti i giornali. La festa in discoteca che imbarazza il PD, questo è il titolo dell'articolo sul Corriere della Sera, pagina 14, a firma Elsa Muschella. Era un party che serviva ad Agnano a lanciare qualche manifestazione TV legata al Partito Democratico. C'era un po' tutto il gota del Partito Democratico campano, c'era il responsabile della giustizia Andrea Orlando, c'era il segretario regionale Enzo Amendola, c'era il capogruppo regionale Peppe Russo. Il problema, e ci sono le foto su Il Giornale, su Libero, sul Secolo XIX, sul Corriere della Sera, c'erano anche delle ragazze, immagine, diciamo, non si può neanche dire vestite come, forse bisognerebbe dire svestite come, tra hostess in abiti striminziti. Ci sono delle foto imbarazzanti, addirittura sul giornale sono censurate, perché sono, ecco, le ragazze immagini con minigonne senza mutandine, per cui si vede tutto. Il Bunga Bunga PD, festa hard a Napoli, così titola Il Giornale. Vabbè, certo, Il Giornale, anche Libero, non possono non approfittare per attaccare il PD. Mezzo PD fa il bunga bunga, ma pare che Bersani sia andato su tutte le furie. Anche sul Secolo XIX, i rampanti del Partito Democratico alla festa erotica a Napoli, notte di baldoria per i democratici campani tra cubiste mezze nude e molti responsabili ovviamente del partito. Ora Andrea Orlando, responsabile di giustizia e della campagna, si difende, dice: io sono andato a Occupy Scampia, poi sono arrivato lì alle 23, si è rimasti solo per i saluti, non c'erano donne nude o ballerine, finché ho presenziato non c'è stato nulla di osceno, e comunque non sono responsabile né direttamente né indirettamente del contesto nel quale si collocava l'appuntamento. In ogni caso pare che Bersani, voglio vederci chiaro, pare che Bersani sia stato molto infastidito, perché lo stesso giorno della festa c'è stato appunto questa manifestazione, che è stata poi peraltro un mezzo flop, quella di Occupy Scampia. Va così, insomma, è venerdì e quindi è tempo di festeggiare, no? Eccoci qua, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno informando. A Roma, Montemario, non nevica, temperatura 0,8 gradi, ci fa sapere un ascoltatore. Oppure nevica in provincia di Roma, attenzione perché sta arrivando il generale inverno. A nord di Roma 0 gradi e 0 fiocchi, Paolo da Castel Giuliano, grazie. Mentre pare si sia attestata per ora a Forlì la grande bufera, ma sta arrivando, e Roma chiude, blindata, chiuso tutto. Di questo ne parleremo alle 8:30, arrivano anche tantissimi messaggi, ovviamente anche un po' arrabbiati, di gente che dice: ma come, nevica in tutta Italia e Roma si attrezza così, chiudendo tutto. Comunque ne parleremo più avanti, anche in rassegna stampa. Intanto partiamo da chi? Da Mario Monti, che ieri è andato da Obama. E beh, c'è un'incoronazione, giornali che raccontano, devo dire, in maniera, con toni anche un po' imbarazzati per me, in maniera agiografica proprio, la vicenda di Mario Monti e l'America. Leggete per esempio La Stampa, che dedica, ieri c'era questa intervista a Barack Obama, La Stampa oggi dedica 7 pagine a questa visita. Welcome Super Mario, il professore spiega la ricetta per la crescita, e quando parla lui fa sapere Maurizio Molinari, c'è un rigoroso e un religioso silenzio, tutti ad ascoltare le ricette di Super Mario Monti. Il professore spiega la ricetta, applausi a raffica di domande quando è andato a parlare al Peterson Institute. E, beh, certo, poi aiuta molto la copertina di Time, no? Dedicata a Mario Monti, e con il titolo «Può quest'uomo salvare l'Europa?», definito, credo, anche lì un nonno simpatico, che però sul quale l'America punta moltissimo. Beh, certo, il colloquio con Barack Obama, gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per aiutare a stabilizzare l'eurozona, ha detto Obama, e abbiamo una visione unanime sulla crescita economica, dobbiamo migliorare l'azione. Questa è la replica di Monti, che appunto è stato poi applaudito, l'italiano in Loden, l'uomo che può salvare l'Europa. Anche Vittorio Zucconi si lascia andare in sperticati elogi, un premier italiano così a Washington non l'avevano mai visto, forse per questo piace, the man in Loden, l'uomo in Loden. E quando arriva, tanto che qualche giornalista a un certo punto ci chiede, ma siete sicuri che Monti sia italiano? È arrivato a chiedere un membro della delegazione a un giornalista locale, scherzando ma solo in parte. E allora eccolo qui, i cercano i paragoni in America, italiano come Moro, enigmatico e sfuggente come Andreotti, certo non corruttibile come i ministri politici e i generali truffatori che accettavano bustarelle dalla CIA e dalla Lockheed. E insomma, questa visita di Mario Monti in America è diventata oggetto di studio anche dell'italiano Mario Monti, nuova figura che, certo, paragonata, e per esempio Gramellini lo fa nel suo Buongiorno sulla Stampa, all'ultimo premier Berlusconi, che aveva guadagnato la copertina del Time, però per motivi meno simpatici, diciamo, con dei toni meno elogiativi sicuramente rispetto a quelli che ottiene Mario Monti. Quindi Mario Monti in America, molti giornali aprono su questo, su questa visita. Certo, dagli Stati Uniti la voglia di salutare la stabilità europea, anche perché Atene fortunatamente ha trovato l'intesa in extremis. Atene sempre sull'orlo del default. Dovete leggere Il Sole 24 Ore per capire tutti gli estremi di questa intesa che è stata trovata in extremis. Appunto, Vittorio Darold ne parla a pagina 3. Dopo giorni di drammatici colloqui iniziati domenica scorsa, i leader dei 3 partiti politici greci che sostengono il governo Papademos hanno raggiunto un faticoso accordo sul pacchetto di misure di austerità richieste dalla troica composta da funzionari europei, Fondo Monetario e BCE, in cambio di 130 miliardi di euro di aiuti. Dunque, se questo accordo c'è, se regge all'analisi della troica mondiale, per l'appunto, vale a dire Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, ecco che potrebbero arrivare gli aiuti di 130 miliardi di euro che erano vincolati appunto a questo accordo, per cercare di salvare nell'ultimo tentativo disperato Atene dal default. In realtà il Corriere della Sera fa sapere, con Ivo Caizzi a pagina 5, che la Grecia si arrende, è vero, trova l'accordo in extremis, ma in realtà all'Europa non basta. Il ministro delle finanze greco Venizelos ha portato all'Eurogruppo straordinario convocato a Bruxelles atteso accordo tra i partiti. Venizelos però è apparso schiacciato tra i ministri finanziari più rigidi, che pretendono interventi più rigorosi, e ampi settori del suo paese che giudicano eccessive le richieste europee in un periodo già di profonda recessione. Insomma, diciamo che ora l'Europa dovrà vagliare, dovrà decidere, e non è detto che si decida appunto per accettare questo piano di Atene. Io però voglio lasciare questi argomenti per venire alla notizia sicuramente che farà più discutere, vera, non vera, da commentare, da non commentare. Il Vaticano, con il suo portavoce padre Lombardi, ha detto è una notizia talmente incredibile che non si può commentare. Sta di fatto che Il Fatto Quotidiano la mette in prima pagina, ed è una notizia bomba, come si suol dire. Complotto contro il Papa, entro 12 mesi morirà. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Si tratta di un appunto consegnato un mese fa dal cardinale Castrillon, che riferisce quanto detto dal cardinal Romeo, che è arcivescovo di Palermo, in un suo recente viaggio in Cina. Il Fatto Quotidiano dedica 5 pagine a questo tema, anzi di più, 7, le prime 7 pagine a questo tema. Complotto di morte, scrive Marco Lillo, mord complots, complotto di morte, fa impressione leggere nero su bianco su un documento strettamente confidenziale e riservato e pubblicato in esclusiva dal Fatto che un cardinale autorevole, l'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, prevede con preoccupante certezza la morte del Papa entro il novembre del 2012. Una morte che, per la sicurezza con la quale è pronosticata, lascia intendere agli interlocutori del cardinale l'esistenza di un complotto per uccidere Benedetto XVI. Il documento viene pubblicato a pagina 2 e 3, il documento integrale tradotto dal tedesco. È un documento che è stato consegnato dal cardinale colombiano Dario Castrillon Hoyos alla segreteria di Stato e al segretario del Papa nei primi giorni di gennaio, col suggerimento di effettuare indagini per comprendere esattamente cosa abbia fatto e con chi abbia parlato l'arcivescovo Romeo in Cina per arrivare a dare queste idee. E il documento recita questo: durante i suoi colloqui in Cina, il cardinal Romeo ha profetizzato la morte di Papa Benedetto XVI entro i prossimi 12 mesi. Le dichiarazioni del cardinale sono state esposte da persona probabilmente informata di un serio complotto delittuoso con tale sicurezza e fermezza che i suoi interlocutori in Cina hanno pensato con spavento che sia in programma un attentato contro il Santo Padre. Beh, questo è un tema che farà discutere, ovviamente. Il Fatto ricorda anche tutte le altre vicende, gli omicidi, i sequestri, l'attentato al Papa Giovanni Paolo II, insomma l'idea dei complotti in Vaticano, come l'idea dei complotti in generale nel mondo, è una cosa non nuova, ma questo è un documento in lingua tedesca che è stato consegnato al Papa e che oggi il Fatto Quotidiano pubblica in originale e che certo farà discutere per giorni e giorni. Il Vaticano, appunto la Santa Sede, ha smentito dicendo con il portavoce: mi sembra una cosa talmente fuori dalla realtà e non la voglio nemmeno commentare. Allora, nevica nel frattempo in questi 10 minuti a Roma, è venuta la neve, a parte che la neve è attesa dalle 14, dunque per il momento potete stare abbastanza tranquilli, chiusi a casa. Come ha detto il sindaco Alemanno, se ci vogliono le catene a bordo o le gomme da neve, se nevica bisogna metterla ai primi fiocchi, bisogna montare le catene. Ieri impazzava l'ironia su Twitter, era: mi raccomando, l'ordinanza catene, me montare le catene se nevica, e se la strada curva girare il volante. E, insomma, le ironie si sono un po' sprecate, perché anche sui giornali è così: ondata di gelo eccezionale, Roma chiude. Ma Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in prima pagina firma un editoriale di questo tipo: l'ondata di gelo e di isteria, la neve e il gelo hanno provocato disagi seri, qualche tragedia autentica, ma ancora più grave dell'ondata di maltempo appare l'ondata di isteria che si è abbattuta sull'intero paese. La capitale vive uno psicodramma ormai da una settimana. È nevicato un giorno e le scuole sono rimaste chiuse una settimana. La protezione civile, terrorizzata dalle sfuriate di Alemanno, si cautela annunciando 30 centimetri per la notte tra oggi e domani. E come in una gara di zelo, il sindaco chiude le scuole già stamattina. In totale fanno 6 giorni di vacanza contro 2 di apertura. E insomma, questa è la situazione. Arriva la bufera, Italia in trincea, Roma chiude per l'incubo neve, titola anche il quotidiano Repubblica. Il Messaggero apre, evidentemente, insomma, un quotidiano molto molto diffuso a Roma, apre su questo: torna la neve, Roma chiude scuole e uffici, allerta in tutto il centro per un'ondata eccezionale. c'è chi fa delle ironie anche poco velate. Vabbè, la Padania lo sappiamo, avremo un Borghezio credo carico a pallettoni alle 8.30 che già aveva tuonato contro la scarsa voglia di lavorare che c'è a Roma dopo questa nevicata la scorsa settimana, chissà cosa ci dirà oggi. Ma c'è chi ironizza come Il Giornale con Massimiliano Lussana, pagina 15, il piano d'emergenza, state tutti a casa, a Roma spalano i veneti. E sì, perché Alemanno pare che abbia chiesto aiuto a spalatori del nord-est che arrivino a spalare la neve, così come anche detto accettiamo anche l'aiuto dei rifugiati politici per spalare. Cioè, sembra tutta una cosa surreale, però in realtà è tutto ciò che sta accadendo. Per esempio, Repubblica fa sapere che ora c'è ovviamente la caccia alle catene. Certo, immagino che le catene da neve non fossero uno dei beni più venduti a Roma, dove nevica raramente. Però adesso sono introvabili e pare che siano partite carovane di venditori da Napoli che propongono catene, attenzione perché magari alcune sono anche catene non omologate. Vabbè, questa è la vicenda maltempo di cui poi ci occuperemo alle 8.30. Trovate ancora abbastanza di tema sui partiti e i soldi dopo la vicenda del tesoriere, dell'ex tesoriere della Margherita Lusi. Tra l'altro oggi è spuntata un'altra villa, pare Lusi, un'altra villa pagata dalla Margherita. Fiorenza Sarzanini ne scrive a pagina 15 del Corriere della Sera: a un'altra villa Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, anche questa l'ha comprata coi soldi del partito, si trova ai Castelli Romani, si aggiunge all'appartamento di via Monserrato al centro di Roma e alla splendida dimora di Genzano, valore stimato della nuova villa 2 milioni di euro che si sommano ai 13 prelevati dai conti correnti del partito. La domanda che anche Fiorenza Sarzanini pone, si pone, e la si pone e la pongono anche gli esperti di politica e i politici in Parlamento è: ma davvero tutto questo è stato fatto senza che nessuno se ne potesse accorgere di nulla? Vi segnalo come notizie che troverete un po' magari di taglio, beh, una sul Corriere della Sera, pagina 29, che è questa: sono io l'uomo della squadra speciale anti Brigate Rosse. È una notizia che affonda nel passato. Lo chiamavano negli anni 70 nella lotta alle Brigate Rosse il professor De Tormentis, era il soprannome perché era colui che era stato incaricato di fare gli interrogatori nei confronti dei brigatisti rossi. E allora si parlò più volte di tortura. Ieri ne ha parlato più volte il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Senza fare il nome, oggi il Corriere della Sera con Fulvio Buffi fa il nome. Lo facciamo noi del Corriere della Sera. Chi era il professor De Tormentis? Si chiama Nicola Ciocia. Ha 78 anni, è pugliese di Bitonto, ma vive a Napoli. Viene anche prodotto in una foto del Corriere della Sera del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro proprio dietro a Francesco Cossiga. Si vede cerchiato in rosso, ovviamente si vede solo di spalle. Ebbene, Nicola Ciocia è lui, considerato il professor De Tormentis, uno che si definisce ancora oggi, che vive a Napoli, sono fascista mussoliniano per la legalità. Ma lo si capirebbe, scrive Fulvio Buffi del Corriere, anche se non lo dicesse, fosse solo per il busto del duce che tiene sulla libreria. Ciocia non ammette esplicitamente di aver praticato la tortura, anche se a dire il contrario non sono soltanto dei brigatisti allora arrestati. Se era bravo a estorcere ammissioni, Nicola Ciocia lo è altrettanto a schivare le domande dirette. Alla domanda "lo Stato italiano praticò la tortura?" risponde "le BR hanno fatto strage, avrebbero continuato se non fossero state debellate da un'azione decisa dello Stato". E insomma dice "non serve far male fisicamente, io in vita mia ho dato solo uno schiaffo" e parla di metodi, sistemi, pratiche, mai di tortura, ma certo il tema, anche se affonda nella storia della Repubblica, rimane. Ci fermiamo qui? Sì, cortissima, sempre più corta, tante cose da dire, ma ci fermiamo. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, le 8:21 minuti. Allora, intanto continuano a farci sapere se nevica a Roma, gli ascoltatori, mandateci messaggi al 349-238-6666, che poi ne parleremo dalle 8:30, pare i primi fiocchi. Intanto Roma è blindata, tutto chiuso per i primi fiocchi di neve che arrivano. Allora, il rapporto tra i partiti e i soldi, un rapporto che in questi giorni è un po' tormentato, almeno dalle cronache dei giornali. Io voglio salutare l'ex tesoriere dei radicali, Danilo Quinto. Buongiorno e benvenuto, Quinto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Dal 1995 al 2005, dunque per 10 anni, tesoriere dei radicali. Senta, qui intanto c'è da parlare di una condanna. Lei è stato condannato in via definitiva a 10 mesi per avere sottratto 230.000 euro dal partito. Come si giustifica? Contesta questa condanna? Beh, la condanna è definitiva, quindi non c'è poco da contestare. Fa parte di un aspetto di questa vicenda legato alla giustizia terrena. La giustizia terrena, che è quello che è. Poi c'è un altro tipo di giustizia, e questo deriva dalla mia convinzione. La mia è una storia di conversione, se avremo modo in questi pochi minuti le spiegherò. Intanto volevo fare una precisazione, se mi consente. Sì. Io sono stato, è vero, tesoriere del Partito Radicale dal 1995 al 2005, però ho collaborato e militato per oltre 20 anni, dal 1986 nel gruppo dirigente radicale. Sì. Oltre a questo ho organizzato tutte le campagne elettorali e referendarie, rispetto alle quali ho gestito una massa enorme di denaro per conto di Pannella. Avevo la responsabilità di tutte le strutture del partito, ho promosso l'autofinanziamento con una raccolta di denaro superiore a 25 milioni di euro, cioè ho finanziato l'area radicale per questo importo, ho valorizzato i beni dell'area con importi economici. Quindi lei ci sta dicendo superiori ai 20 milioni di euro. Ci sta dicendo una massa di denaro enorme. Dicendo che quello è stato forse un peccato, visto che non contesta la condanna, è definitiva, è stato un peccato, un peccatuccio veniale, insomma, quei 230.000 euro. No, lei la può mettere su questo piano, capisco l'ironia. Sta di fatto che chi vuole conoscere la situazione che si è creata può accedere alle carte che sono pubbliche. La mia non era ironia, lei sta dicendo: io ho raccolto milioni di euro per il Partito Radicale ed è stato condannato per 230.000 euro. E lei la condanna è una vendetta. È una vendetta di cui sono stati autori le persone che io ho frequentato per oltre 20 anni. Ecco, perché questo mi colpisce. Ed è stato il prodotto di una vendetta dovuta alla mia conversione. Ecco, volevo arrivare a questo punto. Volevo arrivare proprio a questo punto, Quinto, perché mi ha colpito. So che ieri anche il nostro Alessandro Longoni, lei che con cui ha parlato in redazione, ha voluto porre l'accento su questo. Cioè, lei ha avuto per un partito spesso giudicato anche anticlericale, come il Partito Radicale, lei ha avuto un percorso di conversione alla fede e gliel'hanno fatta pagare per questo, ci sta dicendo. Io non so se me l'hanno fatta pagare per questo. Io so che la conversione è un processo che può capitare a tutti. Io ho avuto la grazia di questo. Ho conosciuto una donna che è stato strumento di Dio nei miei confronti. Nel 2003 mi sono sposato con questa donna. Dopo 14 mesi è nato il mio bambino. La mia attività per 20 anni non aveva ricevuto nessun tipo di contestazione specifica. Io avevo i bilanci tutti approvati. Sì. Ci sono le testimonianze dello stesso Pannella che dice in dipartimento che la denuncia che ha fatto nei miei confronti dopo l'avvio della causa di lavoro che avevo fatto nei confronti del Partito Radicale perché mi fossero riconosciuti i miei diritti di lavoratore a prestazione occasionale per oltre 20 anni. Primo elemento. Sì. Secondo elemento, Pannella dice che l'ha fatto per rancore personale. Quindi dopo la sua conversione questa è la situazione. Certo, io, però per quanto mi riguarda, dire questo, mi scusi perché ci tengo, per quanto riguarda quello che è successo lo considero una vendetta e prego per i miei nemici. Questo sì, però mi scusi. È anche pregare per i nemici. Mi scusi, lei Quinto dice, sono venuti a vedere i conti e hanno fatto una vendetta dopo che io mi sono convertito. Lei però non contesta, diciamo, la sentenza, nel senso che è definitiva. Per cui qualcosa di irregolare avranno trovato, magari per vendetta, ma l'avranno trovato. Guardi, io non posso contestare la sentenza, c'è stato un processo di primo grado, d'appello, di la Cassazione, infatti. Rinvio alle carte di questo processo, ci sarà qualcuno che avrà la curiosità di andarle a leggere, in quelle carte c'è scritto tutto, c'è scritto come si è prodotto, i radicali hanno un potere enorme in tutti i gangli della società, io mi sono confrontato con loro da solo, forte soltanto della mia fede. Lei oggi, insomma, dice prego per loro, è forte di questa fede trovata. E spero che si convertino per il male che hanno fatto nella società italiana, spero tanto che si convertino e non sono disposto a non testimoniare quello che ho visto e ho vissuto nei 20 anni di mia militanza. Perché un tratto distintivo della conversione è la testimonianza. Ma infatti, guarda, a me della storia che ho letto ieri su Panorama, anche sui giornali riportata, mi aveva colpito proprio questo. Cioè, lei è una militanza dei radicali e poi si è convertito, ha fatto un percorso e da allora è stato, e dopo questa vicenda è stato condannato. Lei però lega molto questa vicenda, che per molti è una vicenda solo giudiziaria, alla sua vicenda personale di percorso di conversione alla fede. Per lei sono strettamente legate queste due cose? Per me è una cosa intima. Guardi, io non ho mai rubato, ho svolto la mia attività in maniera onesta, non ho un patrimonio personale, non possiedo una macchina, non possiedo una casa di abitazione, non possiedo un conto corrente. Però se lei dice non ho mai rubato, come si concilia questa frase con la condanna definitiva per appropriazione indebita di 230.000 euro? Perché i processi a volte si svolgono in questo modo in questo paese. Tra l'altro c'è un aspetto anche particolare di questo processo, ho accelerato io i processi, ho chiesto io che fosse celebrato subito l'appello, ho rinunciato io di fatto alla prescrizione, quindi io sono andato con una coscienza limpida al mio processo, ha testimoniato anche Pannella, mi ha chiamato persona dedita a attività truffaldina e impostore, dopo aver lavorato per lui per 20 anni, con disinteresse personale e con abnegazione. Ho lavorato per il male, certamente, adesso lo riconosco. Ha lavorato per il male? Per il male, sì, per il male, che si è prodotto nella società italiana con le battaglie dei radicali. Io intanto la ringrazio, le auguro, insomma, in questo percorso. Mi scusi di fare una precisazione a cui tengo. Sì. L'articolo di Panorama cita, estrapola un mio vecchio curriculum e dice che io collaboro con l'Osservatore Romano e con l'Agenzia Fides, cosa che è avvenuta nel passato, non collaboro più con l'Osservatore Romano e l'Agenzia Fides. Invece attualmente collaboro con la Bussola Quotidiana, che è un giornale online che credo lei conoscerà, oltre che con Corrispondenza Romana e Radici Cristiane. Grazie, buona giornata. Grazie, Danilo Quinto, ex tesoriere dei Radicali, che ci ha raccontato questa sua vicenda, condannato a 10 mesi per appropriazione indebita di 230.000 euro, dice è stata una vendetta dei Radicali, anzi del male, ho lavorato per il male per anni e ora prego per loro. Cari romani, in maniera più blasfema, pregate anche che non arrivi la neve, o sta già arrivando i primi fiocchi, alle 14 è previsto il blizzard, la tempesta. Roma è blindata, chiuse le scuole, e non è una novità in questa settimana, chiusi gli uffici pubblici, bisogna montare le catene a bordo al primo fiocco, fermatevi, bloccati, i motorini non possono circolare, insomma Roma chiusa, al di là delle ironie. Il tema è serio e molti se lo pongono, ma è il caso di reagire così a una previsione di nevicata? 24 mattino. Allora, in TV, peccato voi non lo possiate vedere, c'è un'inviata di Sky che si sta trasformando durante la diretta in un pupazzo di neve, sotto una tormenta di neve, non so dove. Intanto per i vostri messaggi 349-238-6666, se volete raccontarci, siete sotto la neve, noi vogliamo parlare di Roma, Roma che attende la neve, forse una nevicata di 30 centimetri, forse da oggi alle 14, e praticamente si chiude, si blinda. Saluto l'assessore alle politiche per la mobilità del Comune di Roma, Antonello Aurigemma. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Saluto anche l'onorevole, l'eurodeputato della Lega, Mario Borghezio. Buongiorno Borghezio. Buongiorno e buona padania a tutti. Eccoci anche a lei. Ovviamente, ecco, assessore Aurigemma, glielo dico, come ben sa, la sta ascoltando l'onorevole Borghezio, la cui posizione è molto chiara già in passato, cioè a dire per Roma non vuole lavorare. Assessore, lei la capisce un po' anche l'ironia che c'è in questi giorni sul fatto forse arriva la neve e Roma è già tutta chiusa, scuole chiuse, uffici pubblici chiusi, assessore? Ma va ricordato che molte di queste ordinanze sono fatte dalla prefettura in accordo con la Protezione Civile Nazionale, quindi noi non facciamo altro che ottemperare con rispettoso e ossequioso le direttive che ci vengono imposte dall'alto. Ci spieghi un po' a Roma oggi cosa si può fare e cosa no? So che per esempio è il divieto di circolazione per i motorini. Guardi, le ordinanze in vigore sono tre, fatte dalla prefettura e in accordo anche con il sindaco: la chiusura delle scuole, la chiusura di molti uffici pubblici e l'obbligo di circolare con catene a bordo e naturalmente con catene montate in caso di neve. Va ricordato che anche questa volta, come aspettavamo le previsioni nel pomeriggio, già dalle prime ore del mattino abbiamo il quadrante nord che si sta completamente inondando di neve. Ah, quindi già nevica. Grazie sulla Tiburtina, alle porte di Roma. E infatti già qualche ascoltatore ce lo dice, sulla Cassia per esempio ci sono già i primi fiocchi di neve, nevica. Insomma, lei quindi respinge le ironie, forse non so, lei segue Twitter, segue social network, le avrà lette le ironie anche su queste ordinanze? C'è qualche ironia che circola, no? Sul fatto che Roma attenda... per esempio, guardi, Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera, un'ondata quasi di isteria, uno psicodramma sta travolgendo la capitale da una settimana per questa neve. Ma preferisco le ironie di internet, dei mezzi informatici, piuttosto che commentare qualche avvenimento poco piacevole o poco gradevole che comunque purtroppo, ahimè, hai visto coinvolto in tutta Italia. Mi sembra siamo arrivati quasi ad una ventina di decessi dovuti a incidenti o gelate o quant'altro, quindi meglio prevenire piuttosto che commentare episodi di cronaca nera. Senta, gli autobus e i mezzi di trasporto sono attrezzati? Sì, ma i mezzi di trasporto sono stati sempre attrezzati. Venerdì l'unico problema che abbiamo riscontrato è che purtroppo la mancanza di coordinamento e di comunicazione con la Protezione Civile ha portato a molte macchine a circolare all'interno della città e di conseguenza con la neve che è caduta dalle prime ore del mattino ha bloccato, le macchine si sono fermate sulla strada e quindi i mezzi dotati di supporto da neve erano bloccati, non perché c'era il problema della neve, ma perché c'erano le macchine che impedivano la circolazione, anche perché va ricordato che venerdì il blocco è iniziato dalle prime ore del mattino sul raccordo anulare che circonda la città di Roma e su tutte le consolari in entrata, quindi avevamo già 20-30 km di fila di consolari che partivano da comuni che erano molto lontani dalla nostra città e che hanno poi paralizzato il raccordo anulare, tant'è vero che anche l'ANAS non è stata impedita nella funzionalità della pulizia del raccordo e quindi automaticamente ha decongestionato tutta la città. Allora, io Borghezio, eccoci qua. Allora, lei già nei giorni scorsi aveva detto a Roma non vogliono lavorare, non vogliono spalare. Oggi la Padania credo che titoli non ci facciamo fregare dalla finta neve di Roma, addirittura sta nevicando però adesso. Come... Nevicando sicuramente nevica, io sono a Torino ma ho visto le immagini dai telegiornali. Quello che colpisce noi del nord è questo clima, questa atmosfera da notte di tregenda che viene diffuso per quanto riguarda le previsioni sulla capitale. Resta difficile per noi che siamo abituati ad andare a lavorare anche quando nevica, che si dica tutti devono stare a casa. Già come l'assessore ben sa e anche gli ascoltatori, siamo un po' prevenuti nei confronti, diciamo, dello statalismo romano, ma quando sentiamo che, indipendentemente dal fatto che ci sia stato o no un ordine delle autorità di prevenzione, non credo sinceramente che le autorità di prevenzione abbiano detto tutti devono stare a casa. Voglio dire, è difficile comprendere come 62.000 dipendenti diretti o indiretti del Comune di Roma se ne debbano stare al calduccio, o quasi tutti, probabilmente non i vigili, eccetera, quando invece sarebbe opportuno vederli, per esempio, spalare la neve almeno davanti agli uffici comunali. Pare che arrivino gli spalatori del nord, credo che Alemanno abbia chiesto. Per non parlare dei negozianti, dei cittadini, eccetera, che devono contribuire come si fa normalmente al nord. La neve non è un evento epocale, è un evento climatologico, voglio dire che naturalmente a Roma, per la sua felice posizione geografica, è più raro che altrove, ma succede anche a Roma, non siamo nel Sahara, e per questo motivo riteniamo lecite queste ironie, che naturalmente vanno prese per quello che sono, non è che ci sia disprezzo per nessuno, e tanto meno odio xenofobo, però c'è una, una giusta e motivata considerazione del fatto che a Roma tutte le scuse sono buone per non andare a lavorare, soprattutto nel settore pubblico. Alla fine l'impressione è questa. Al sindaco e all'autorità presidente della provincia smentirci, ma quello che vediamo e quello che sentiamo rende lecito ogni sospetto al riguardo. Tra l'altro, assessore Origen, ma come la mettete col fatto? Le scuole sono chiuse, i dipendenti pubblici, molti, staranno a casa, però giustamente. Anziché spalare la neve. Anziché spalare. Adesso il dipendente pubblico, Borghezio, un dipendente pubblico. I dipendenti pubblici non sono mica tutti i direttori generali, ci saranno anche operai della e poi soprattutto voglio dire, come da noi il piccolo negoziante provvede a spalare la neve davanti al suo negozio, cioè cos'è, il ministeriale deve scendere a spalare la neve, che anche il ministeriale dia una mano in qualche modo, e comunque soprattutto vada a lavorare, ecco, sul vada a lavorare, assessore, di neve che adesso non ci sono ancora, come su questo sì, si vedono anche qui da però Torino, assessore Aurigemma, vorrei l'abbiamo capito, Borghezio. Assessore Aurigemma, quello che volevo capire è la gente che per esempio trova le scuole chiuse, ma lavora in un'azienda privata e deve andare a lavorare, che fa? Ah, guardi, per quanto riguarda le ordinanze di chiusura degli uffici, il coinvolgimento riguarda relativamente l'amministrazione comunale, in quanto la maggior parte degli uffici comunali, soprattutto quelli operativi sull'emergenza traffico, sono aperti. Va ricordato che la parte di dipendenti dell'amministrazione comunale, ma soprattutto delle aziende municipalizzate come quella del trasporto e dell'AMA, hanno lavorato e stanno lavorando anche al di fuori del proprio orario di lavoro, come l'hanno fatto la scorsa settimana, lo stanno facendo anche oggi, perché se no non sarebbe stato possibile riavere la città imbiancata la scorsa settimana in pochissimi giorni di tempo già operativa con la viabilità. Quindi approfitto per fare un plauso a tutti quei dipendenti, quei volontari che al di fuori del proprio orario di lavoro hanno lavorato, anche perché la prevenzione delle ordinanze di chiusura degli uffici, io immagino che la prefettura li abbia fatti per evitare di far transitare mezzi in strade. È giusto ricordare che la nostra città ha festeggiato da poco 2764 anni, è una città predisposta a nevicare o quant'altro, e quindi i sette colli di Roma, quando si imbiancano e soprattutto quando si ghiacciano le strade, sono molto pericolosi, quindi questi provvedimenti vengono fatti immagino dalla prefettura per tutelare anche le strade, per evitare di andare al lavoro, ma quanto per evitare che possano accadere incidenti su strade ghiacciate, su salite. Questo sì, l'unica cosa, però, e da qui voglio ripartire dopo il traffico, è capire perché negli uffici pubblici questo è possibile, mentre chi lavora in un'azienda privata deve andare a lavorare, col problema magari che ho la scuola chiusa e non sa dove mettere il figlio. Comunque, allora, la neve e Roma, fatemi sentire Paolo da Roma, che ci ha chiamato all'800240024. Paolo, nevica? No, nevica assolutamente. Buongiorno. Dica. Per ora non nevica. Allora, io volevo fare semplicemente due constatazioni. Una, quella che anticipava lei sul discorso del problema delle scuole chiuse. Io, per esempio, ho una collega che chiaramente martedì scorso, per la chiusura delle scuole prolungata, ha dovuto prendere un giorno di ferie perché non sapeva come lasciare la, sì, la figlia, che chiaramente non ha avuto il tempo per organizzarsi. E poi un altro problema, il discorso delle catene a bordo, diciamo che fatto con un pochino d'anticipo, forse non ci sarebbe stato il doppio problema. Il primo, di non trovare, sì, assolutamente catene disponibili in nessun, sì, posto. Io le posso assicurare, ieri ho girato 10, lo so, pare che arrivino, pare che siano arrivati da Napoli venditori ambulanti a vendere le catene, ovviamente a prezzi non esorbitanti. Esatto, a Porta Portese, vado a Porta Portese. Non ci sono più neanche a Porta Portese. Il secondo problema, sul quale sicuramente mi auguro che il comune vigili, è la speculazione. Catene che 2 settimane fa costavano 50 euro, oggi ne costano 150. Questo è effettivamente un altro problema. Grazie Paolo, vorrei tornare un attimo da Borghezio. Borghezio, ha sentito che Alemanno, tra le altre cose dette nei giorni scorsi, è che gli alberi di Roma, ed è un fatto botanico, resistono meno perché crescono a Roma e non sono abituati, a crescendo magari con un pino silvestre al nord, a sopportare questi carichi di neve. Ma io non sono così esperto di botanica come evidentemente il sindaco di Roma ritiene di essere, però dico che al netto della questione degli alberi più sensibili del clima romano, quello che appare, quello che vediamo, perché Bossi ci ha insegnato sempre a giudicare da quello che vediamo direttamente, quello che vediamo è una città bloccata, una città nella quale, che è una città che si arrende prima di combattere. Il vostro ascoltatore ci ha detto che non sta ancora cadendo praticamente la neve. Vabbè, ma dalle 14 attesa, dalle 14 a casa al calduccio. L'assessore non può negare un dato che è ammesso dalla stessa amministrazione. I comunali, tranne brillanti eccezioni, sono a casa. E essendo a casa, voglio dire, non producono. E questo è grave, nel momento in cui tutto il paese tira la cinghia, ci deve essere assicurata la produttività degli enti locali. Io credo che consentire questo mega ponte fino a lunedì, salvo altre minacce di eventi straordinari sulla capitale, è sbagliato. Però mi scusi Borghezio, settimana scorsa è stato accusato Alemanno per giorni di non aver fatto, dove poi c'è stata un'emergenza, gente bloccata nelle strade. Ecco, una volta che dicono, stavolta ci dicono che arrivano 30 centimetri e noi ci attrezziamo prima. Ma volta... il fatto di attrezzarsi prima è giustissimo, cioè quindi dotare i mezzi comunali di catene, farli circolare, perché mi risulta che venerdì scorso non ne circolassero pochini, mentre in strada tutto quel personale che deve lavorare, non è che deve lavorare se ha voglia, il volontariato, ma che volontariato? Questi devono andare a lavorare. Le immagini che su Libero abbiamo visto, con il commento simpaticissimo di Franco Becchis, di quei 4-5 dell'AMA che mi pare alla Balduina facevano finta di spallare la neve, in realtà ogni 30 secondi si riposavano, hanno dato, ed erano i soli che lavoravano, quasi i soli, hanno dato l'immagine di una struttura pubblica che non funziona. Cioè, non c'ha voglia di lavorare. Era una tempesta di neve. Lei insiste su questo, non ha voglia di lavorare. Non hanno voglia di... Ma questo è quello che vediamo, io non giudico. Assessore, su questo... E da quello che hanno scritto i giornali. Assessore Aurigemma, perché lei difende la voglia di lavorare, però Borghezio la punta su questo. Cioè, non c'è voglia. Roma si è paralizzata ancora prima. Arresa davanti alla venuta forse della neve, senza voler reagire. Assolutamente no, io sto girando per Roma, vedo tante persone che sono attive, tanti presidi sulle strade, non ho visto le immagini di Franco Becchis, io ho visto altre immagini, forse essendo più operativo la scorsa settimana ho visto immagini di tante persone, lavoratori dell'AMA o non, volontari o persone di Roma che si sono rimboccate le maniche e si sono dati da fare. Io continuo a ripetere, queste ordinanze messe in accordo con la prefettura non hanno uno spirito di ponte, anche perché non riesco a capire il ponte, visto che tutta l'Italia è bloccata, quindi non so dove andrebbero in giro, visto che la maggior parte dei treni che vengono dal nord o dei treni che arrivano all'interno della nostra città sono stati soppressi. ferrovie. Certo. Quindi lei contesta queste idee. Proprio con questo spirito, diciamo, gli enti preposti hanno voluto prevenire eventuali disagi, soprattutto hanno voluto evitare eventuali criticità che potrebbero avere conseguenze pericolose. Vabbè, quindi lei, per concludere, contesta anche l'idea di uno psicodramma in corso esagerato, no? Invece, assolutamente. No, non c'è nessun psicodramma. Va bene, io vi ringrazio, l'assessore alle politiche per la mobilità di Roma, Antonella Origemma, e Mario Borghezio della Lega Nord Europarlamentare. Concludiamo con da Viola Bottone, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Miriam Lucchetti, tutte in redazione, insieme a Peter Vescapè, il nostro, e oggi il nostro alpino, oggi ci sta, eh. Ci sentiamo lunedì.